Appello solidale. Buongiorno a tutti. Dopo 37 anni di attività, la cooperativa Colosseum non ottiene il rinnovo della concessione per l'uso delle piscine comunali di Breccia. Molti invalidi della zona usufruiscono di questo importante servizio sociale. La chiusura di questo centro obbligherà tutti i disabili e i bisognosi di cure fisioterapiche a privarsi di cure importanti e a doversi spostare su strutture remote con notevoli disagi. Vi prego di voler condividere questo appello affinché le autorità comunali, i servizi sociali, noi disabili e le parti in causa possano trovare una soluzione al problema. Grazie, Michele D'Argenio.